America 24 di Mario Platero. WikiLeaks.org, a whistleblower website, has published what it says are nearly 92,000 official US documents. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, WikiLeaks, la nemesi dell'amministrazione USA, questo nuovo megafono che su internet è riuscito a cambiare il rapporto mediatico tra informazione controllata e informazione grezza. Beh, e abbiamo visto negli ultimi due giorni come WikiLeaks abbia colpito nel segno, ha dimostrato documenti alla mano, documenti originali, top secret, insomma 92.000 documenti per essere precisi, che la guerra in Afghanistan si fa sempre più difficile, che i talebani hanno conquistato posizioni che non avevano anni fa, soprattutto che 300 miliardi di dollari spesi in questa guerra contro Osama Bin Laden e i suoi alleati hanno portato molto poco. Perché? Beh, perché oggi i talebani si sono riorganizzati, hanno reagito, sono più forti di quanto non lo siano mai stati dal 2001 ad oggi. Ci sono molti aspetti di questa storia che ha fatto, come avrete sentito, il giro del mondo. Beh, c'è naturalmente la componente politica, perché l'amministrazione Obama si trova in difficoltà, deve dimostrare che la strategia seguita finora, anzi la nuova strategia impostata dal presidente, funziona davvero. Adesso chiaramente diventa più difficile. C'è poi la componente militare. Come si tiene su il morale delle truppe schierate al fronte quando a casa la storia diventa una storia perdente, la storia di una guerra che non va bene? E dunque riaffiora, secondo me, il fantasma del Vietnam. Riaffiora soprattutto il fantasma di un reportage di Walter Cronkite, una celebrità del giornalismo americano, un grande vate del giornalismo americano, che a un certo punto negli anni 60 disse come la guerra in Vietnam non si sarebbe mai vinta. E ci fu una famosa battuta poi del presidente Lyndon Johnson, che disse: ah, se abbiamo perso il favore di Cronkite, abbiamo perso l'opinione pubblica americana. Oggi a un giornalista si sostituisce un sito internet, perché in effetti allora poi l'opinione pubblica americana seguì Cronkite e quel reportage segnò poi la svolta verso l'abbandono e il ritiro degli americani. E dunque c'è infine questa componente mediatica, perché WikiLeaks è un sito specializzato nella diffusione di documenti, immagini segrete ottenute da fonti all'interno del Pentagono che vogliono in qualche modo denunciare presso l'opinione pubblica americana storie importanti. Per esempio fu WikiLeaks che distribuì immagini ormai celebri di un elicottero americano da cui i militari sparavano su dei giornalisti della Reuters, e furono immagini che crearono scandalo e sensazione nell'opinione pubblica mondiale. E adesso ovviamente si apre un nuovo capitolo mediatico, perché questo è un sito internet che svolge questo ruolo. Ma al di là di tutto questo, fra i 92.000 documenti ce ne sono alcuni che mi hanno colpito e che riguardano l'Iran. Well, it seems international pressure on Iran is growing over its controversial nuclear program, new far-reaching sanctions. Ecco, fra questi documenti ce ne sono alcuni in cui si denuncia come l'Iran stia conducendo una battaglia silenziosa contro le forze americane in Afghanistan. Una battaglia silenziosa perché Teheran opera dal confine, in qualche modo cerca di dare l'impressione di tenersi fuori, però da questi documenti emerge che invece c'è stato un ruolo molto attivo da parte di Teheran nel fornire armi e quattrini ai talebani, nell'organizzare dei centri di addestramento militare per i soldati, per i militanti, e dunque si conferma questo ruolo che Teheran svolge un po' dappertutto nella regione, perché sappiamo che ha svolto un ruolo importante nel destabilizzare la situazione in Iraq, e da sempre la minaccia di Teheran è stata quella di destabilizzare la situazione in Afghanistan. Dopo il passaggio delle sanzioni alle Nazioni Unite, ecco che l'Iran è andato avanti in questa sua missione, almeno così dicono i documenti avvenimenti più recenti. Ma la destabilizzazione che sta portando avanti l'Iran non riguarda solo l'Afghanistan, ci sono notizie di ogni genere che ogni giorno arrivano da Teheran. Per esempio, sono stati emissari di Osama Bin Laden che hanno potuto partire da Teheran, crearsi una base a Teheran per andare poi ad acquistare armi in Corea del Nord per poterle esportare in Afghanistan. In questi giorni sappiamo che Hezbollah, il gruppo militante in Libano, sarà incriminato per l'uccisione, per l'assassinio di Rafik Hariri, il primo ministro libanese, appunto ammazzato anni fa, con grande destabilizzazione dell'intera regione. Il leader di Hezbollah, Nasrallah, rifiuta queste accuse, sta minacciando delle ritorsioni se per caso la magistratura dovesse andare avanti, e dietro Hezbollah e Nasrallah c'è di nuovo Teheran. Teheran finanzia Hezbollah, lo finanzia anche attraverso la Siria. Poi, altra storia, ci sono tre americani che restano prigionieri di Teheran, erano tre giovani turisti che si trovavano al confine con l'Iraq, erano in Iraq, ebbene sono stati arrestati, accusati di essere delle spie. Sappiamo che non lo erano, erano veramente degli studenti, dei giovani che così forse un po' imprudentemente cercavano un po' di avventura. E dunque in questa giornata in cui emerge un po' chiaro da questi documenti, uno dei fatti nuovi che emerge da questi documenti è del ruolo attivo dell'Iran, forse è il caso di parlare di sviluppi che riguardano Teheran. Abbiamo con noi Christian Rocca, inviato del Sole 24 Ore, e a lui chiediamo di cercare di capire quale può essere una soluzione per l'Iran nel momento in cui le sanzioni sono state passate ma non sembrano avere per ora un impatto importante. Ma intanto bisogna ricordare che questo è il terzo round di sanzioni che la comunità internazionale, il Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha approvato negli ultimi anni. Questa volta, a differenza degli anni di Bush, quando è stata approvata all'unanimità, anche con il voto della Siria o con l'astensione della Siria in un caso, questa volta Obama ha avuto due voti contrari. Ha avuto il voto contrario della Turchia, un alleato storico della NATO e degli Stati Uniti, e ha avuto il voto contrario addirittura del Brasile. Quindi diciamo, non è che è stato un successo così limpido. E poi c'è anche l'idea che queste sanzioni non funzionino. Il Congresso americano ha approvato un giro di sanzioni economiche molto più duro rispetto a quello delle Nazioni Unite, ed è stato approvato alla quasi unanimità sia dai democratici che dai repubblicani. Ecco, comunque sia, la paura di fondo è che un Iran nucleare, al di là di quello che possono pensare una gran quantità di politici, pensatori, autori, secondo i quali poi tutto sommato l'Iran è un paese responsabile, dunque ha bisogno del nucleare sia per questioni civili, e poi anche se avesse una bomba, tutto sommato, beh, che cosa cambia? Ce l'hanno altri paesi, ce l'ha per esempio Israele. In realtà il quadro geopolitico è un quadro alquanto allarmante, perché l'Iran nucleare significa Arabia Saudita nucleare, significa Turchia nucleare, significa rischio che alcune di queste armi vadano a finire nelle mani di gruppi, diciamo così, non propriamente affidabili. Per noi, soprattutto in Italia, avere un Mediterraneo nucleare credo che non sia rassicurante, Christian, vero? Beh, intanto alle intenzioni benevole dell'Iran, l'idea che l'Iran voglia usare il militare a fini civili non crede nessuno. L'Iran è un paese ricco di gas, ricco di petrolio, se c'è una cosa di cui non ha bisogno certamente è l'energia atomica. Il problema è che probabilmente l'Iran è ancora peggio di quella cosa che hai detto tu. Non è una potenza regionale come le altre, non vuole utilizzare il nucleare a fini, diciamo, di geopolitici, ma c'è il rischio che sia un'altra cosa. Per esempio? Beh, insomma, è lo stesso Ahmadinejad che dice di aspettarsi l'arrivo del dodicesimo imam della tradizione sciita, cioè che si è nascosto e che dovrebbe tornare dopo una vicenda apocalittica. E dunque, ecco, dunque lo scenario appunto apocalittico. Ma veniamo a un aspetto concreto. Io non credo che un attacco militare sia possibile, perché intanto l'Iran ha queste sue centrali, queste sue centrifughe ormai distribuite in una gran quantità di posti, e quindi, a differenza dell'attacco a Iraq, che era in un collocato in un posto solo, che era localizzato in un posto ben preciso, un attacco diventa praticamente inefficace. Sì, si distrugge qualcosa, ma il resto va avanti. Non solo, alcune di queste centrifughe sono vicine a delle scuole, quindi c'è un rischio umanitario. Ecco, in termini concreti, che cosa succede? Attacca Israele con l'ok degli Stati Uniti? Cioè, c'è un piano? Esistono delle strategie? I piani ci sono, l'ha detto anche il segretario alla difesa americano Bob Gates, che il Pentagono non solo ha dei piani, come ovviamente, perché il Pentagono fa questo, piani di guerra o di difesa, ma li hanno anche aggiornati. Le ultime notizie sono di un tentativo di una consapevolezza maggiore da parte dell'apparato militare israeliano e anche di una consapevolezza da parte della Casa Bianca di non poter più fermare, diciamo, Israele nel suo tentativo di difendersi. Ah, tu pensi quindi che non so se Israele va avanti da solo. È vero che c'è un po' di freddezza, abbiamo visto, c'è stato un incontro qui a Washington recentemente fra Netanyahu e Barack Obama, i due hanno cercato di riprendere un po' il dialogo, dunque non so se Israele poi se la sente di andare avanti da solo. D'altra parte, dare l'autorizzazione andrebbe contro così la filosofia di questa amministrazione Obama, che peraltro per molti aspetti è stata perdente. Ma allora domandiamocelo, non esiste forse una terza via? Sì, esiste una terza via, era la via che Bush dal punto di vista intellettuale e ideologico aveva perseguito, poi nei fatti molto meno, che era quella del cambiare i regimi, del sostenere la democrazia, del promuovere la libertà, dell'aiutare i gruppi democratici e i dissidenti nei regimi totalitari. E abbiamo questa forza enorme, quest'arma fondamentale, formidabile, che è il popolo iraniano che odia il suo regime. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, i Beach Boys, uno dei miei gruppi preferiti. Ogni tanto vi farò sentire le loro canzoni. Stanno per celebrare i 50 anni di carriera, hanno programmato un concerto, non hanno detto dove, si dice sulle sponde del lago a Chicago, al Golden Gate Park a San Francisco, oppure al National Mall addirittura a Washington. Dunque dedichiamo questa canzone ai Beach Boys, Surfing USA. A bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch him surfing at LA, inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and inside, outside USA. Australia's Caribbean, inside, outside USA. All bene, Christian, abbiamo chiuso. Alla prossima. A voi. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.